Cortese per consolarli, il bibliotecario quacchero mormorò. E abbiamo, ne è vero, quelle impagabili pagine del Wilhelm Meister, un grande poeta che parla di un grande poeta fratello, un'anima esitante che prende le armi contro un mare di guai, dilaniata da un conflitto di dubbi, come si vede nella vita reale. Piroettò avanti di un passo su scricchiolante vacchetta e di un passo indietro piroettò sul solenne impiantito. Un tacito inserviente, aprendo la porta appena appena, gli fece un tacito cenno. «Immediatamente», disse, scricchiolando sulle mosse di andare, benché indugiando. Il bel sognatore inefficiente che si infrange contro la dura realtà, si avverte sempre che i giudizi di Goethe sono così esatti, esatti come analisi generale. Biscricchiolante analisi uscì a passo di corrente. Calvo, zelantissimo, prestò vicino alla porta vasto orecchio tutto alle parole dell'inserviente, le sentì e scomparve. Due rimasti. Monsieur de la Palisse, ghignò Steven, era vivo un quarto d'ora prima di morire. Ha trovato quei sei prodi studenti in medicina? Chiese John Eglinton con una bile da anziano. Per dettar loro il paradiso perduto? I dolori di Satana, lo chiama. Sorridi. Sorridi il sorriso di Cranley. Prima la pizzicò e poi la palpeggiò. Poi le passò il catetere perché studia da medico, quel matto di medico. Mi pare che ce ne vorrebbe un altro per l'Amleto. Il sette è caro agli spiriti mistici. I fulgi di sette li chiama WB. Occhi rutilo, il suo cranio fulvo vicino alla lampada incappucciata di verde. Cercava il viso barbuto in mezzo all'ombra più verde cupa. Un dottobardo, occhi di santo. Rise basso. La risata di un borsista di Trinity, senza risposta. Satana, l'orchestrale piangeva più d'una spanna lacrime, quali ne versa un angelo soltanto, ed egli avea del cul fatto trombetta. Tiene le mie follie in ostaggio. Gli 11 fedeli di Wicklow. Uomini di Cranley per liberare la loro terra vita. Kathleen la sdentata, i suoi quattro bei campi verdi, lo straniero in casa sua. E un altro ancora per salutarlo. Ave, Rabbi! I 12 di Tine Healy. Nell'ombra della vallata, tuba per loro. Gli ho dato la giovinezza dell'anima mia, notte per notte. Buona ventura, buona caccia. Mulligan ha il mio telegramma. Follia, insistere. I nostri giovani bardi irlandesi, John Eglinton censoriamente proseguì, devono ancora creare una figura che il mondo possa mettere accanto all'Amleto del sassone Shakespeare, per quanto io l'ammiri, come il vecchio Ben, senza idolatrarlo. Tutte queste questioni sono puramente accademiche. Oracoleggiò Russell dalla sua ombra. Voglio dire, se Amleto sia Shakespeare o Giacomo I o Essex, discussioni di reverendi sulla storicità di Gesù, l'arte deve rivelarci idee, essenze spirituali senza forma. La domanda suprema circa un'opera d'arte è da quali profondità vitali essa scaturisca. La pittura di Gustave Moreau è una pittura di idee, la poesia più profonda di Shelley, le parole di Amleto, mettono il nostro spirito in contatto con la saggezza eterna, il mondo delle idee di Platone. Tutto il resto è speculazione di scolaretti per scolaretti. E ha parlato con qualche intervistatore americano. Bene, che il diavolo mi porti. Gli scolastici furono dapprima degli scolaretti, disse Steven super cortesemente. Aristotele fu un tempo scolaro di Platone. E tale è rimasto, si spera, disse John Eglinton compostamente. Par di vederlo, scolaro modello col suo diploma sotto il braccio. Rise di nuovo, verso il viso barbuto, ora sorridente. Spirituale senza forma. Padre, Verbo e alito santo. Padre universale, l'uomo celeste, Jesus Christos, mago del bello. Logos che soffre in noi in ogni momento. Questo in verità è quello. Sono il fuoco sull'altare, sono il burro del sacrificio. Dunlop, Giach, il più nobile fra i nobili romani. A.E. Arvel, nome ineffabile, che in cielo si chiama K.H., loro maestro, la cui identità non è un segreto per gli adepti. Fratelli della grande loggia bianca, sempre attenti all'occasione di dare qualche aiuto. Il Cristo con la sposa sorella, umidore di luce, nato da una vergine pregna d'anima, Sofia pentita, dipartita verso il piano del Buddhi. La vita esoterica non è per una persona comune. L'APC deve liberarsi per prima cosa del cattivo karma. Mrs. Cooper Oakley intravide una volta il principio spirituale della nostra illustre sorella HPB. Vergogna! Ai bah! Fu Tashfel. Mica si deve guardare, signora mia, quando una signora fa vedere i suoi spirituali. Mr. Best entrò, alto, giovane, mite, lieve. Portava in mano graziosamente un taccuino nuovo, grande, pulito, lustro. Quello scolaro modello, disse Stephen, avrebbe giudicato i pensamenti di Amleto sulla vita futura della sua anima principesca un monologo inverosimile, insignificante e antidrammatico, vacuo come quelli di Platone. John Eglinton, accigliato, disse adirandosi: «In fede mia mi ribolle il sangue a sentire paragonare Aristotele a Platone». «Chi dei due?» chiese Stephen. «Mi avrebbe bandito dalla sua repubblica». «Sfodera le tue definizioni taglienti come pugnali. La cavallinità e la quiddità di tutti i cavalli. Flussi di tendenza ed eoni essi adorano. Dio, rumore per la strada, molto peripatetico, spazio, tutto quell'accidente che non puoi fare a meno di vedere. Attraverso spazi più piccoli dei globuli rossi del sangue umano strisciano, strusciano dietro le chiappe di Blake nell'eternità di cui questo mondo vegetale non è altro che un'ombra. Tienti allora al qui, attraverso i quali tutto il futuro sprofonda nel passato». Mr. Best si fece avanti, amichevole verso il collega. «Heinz se n'è andato», disse. «Ah sì? Gli ho fatto vedere il libro di Hugh Benville. È entusiasmato, sapete, dai canti d'amore del Connacht di Hyde. Non sono riuscito a portarlo qui a sentire la discussione. È andato da Gill a comperarlo». «Vanne, mio libricino, vanne svelto a salutare il pubblico retrivo. Scritto tu fosti, inver contro mia voglia, in anglica favella disamena». «Il fumo di torba gli dà la testa», opinò John Eglinton. «In Inghilterra pensiamo che il buon ladrone andato, gli ho scroccato il tabacco, verde pietra sfolgorante, uno smeraldo incastonato nell'anello del mare. La gente non sa quanto possano essere pericolosi i canti d'amore», avvertì occultamente l'uovo aurico di Russell. «I movimenti che operano le rivoluzioni nel mondo nascono dai sogni e dalle visioni nel cuore di un contadino sui pendii delle colline. Per loro la terra non è un terreno da sfruttare, bensì la madre vivente. L'aria rarefatta dell'accademia e dell'arena producono il romanzo da sei scellini, la canzonetta da varietà. La Francia produce il più bel fiore della corruzione in Mallarmé, ma la vita desiderabile è rivelata solo ai semplici di cuore, la vita dei feaci di Omero». Da queste parole Mr. Best volse verso Stephen un viso inoffensivo. «Mallarmé, sapete», disse, «ha scritto quei meravigliosi poemi in prosa che Stephen McKenna mi leggeva a Parigi. Quello su Amleto dice: il Superman lisano livre de lui-même. Sapete, leggendo il libro di se stesso. Descrive l'Amleto dato in una città francese, sapete, una città di provincia, lo annunciavano. La sua mano libera graziosamente tracciò piccoli segni in aria. Hamlet ou le distrait, pièce de Shakespeare», ripeté al neocipiglio di John Eglinton. «Pièce de Shakespeare, sapete, è così francese. Il punto di vista francese. Amleu, il mendicante distratto», terminò Stephen. John Eglinton rise. «Sì, probabilmente», disse. «Bravissima gente, non c'è dubbio, ma penosamente miopi per certe cose. Sontuosa e stagnante esagerazione di assassinio. Un carnefice dell'anima, lo chiamò Robert Green, disse Stephen. Non per niente era figlio di un macellaio che maneggiava la pesante mannaia e si sputava sulle mani. 9 vite vengono tolte per quell'unica di suo padre. Padre nostro che sei in purgatorio. Gli amleti in cachi non esitano a sparare. Il macello grondante sangue del quinto atto è un presentimento del campo di concentramento cantato da Mr. Swinburne. Cranley, io, suo muto attendente, seguendo le battaglie da lontano. Madri e lattonzi di mortal nemici cui noi soltanto s'era fatta grazia. Tra il sorriso sassone e il latrato americano, l'incudine e il martello. Vuol sostenere che l'Amleto è una storia di spettri, disse John Eglinton per uso e consumo di Mr. Best. Come il ragazzo grasso di Pickwick vuol farci venire la pelle d'oca. Odi, odi, odi. La mia pelle la ode, facendosi d'oca, ode. Se mai tu... Cos'è uno spettro? Disse Stephen con vibrante energia. Uno che è svanito nell'impalpabilità per morte, per assenza, per trasformazione di modi. La Londra elisabettiana era lontana da Stratford quanto la corrotta Parigi lo è dalla Vergine Dublino. Chi è lo spettro proveniente dal limbo patrum, di ritorno nel mondo che lo ha dimenticato? Chi è il re Amleto? John Eglinton spostò l'esile corpo all'indietro per giudicare. Sollevato. È a quest'ora, in una giornata di mezzogiugno, disse Stephen, richiedendo con una rapida occhiata la loro attenzione. La bandiera è issata sul teatro lungo il Tamigi. L'orso Sackerson ruglia nell'arena accanto. Il giardino di Paride. I lupi di mare che hanno seguito Drake masticano salsicce tra gli spettatori della platea. Colore locale. Ficcaci dentro tutto quello che sai. Rendili tuoi complici. Shakespeare ha lasciato la casa del Lugonotto in Silver Street e passeggia vicino ai recinti dei cigni lungo il fiume, ma non si ferma a dar da mangiare alla madre che spinge i suoi piccoli verso i giunchi. Il cigno dell'Avon ha ben altri pensieri. Composizione di luogo. Ignazio di Loyola, corri, mi aiuto. Il dramma inizio. Un attore spunta nell'ombra, ravvolto nella cotta smessa di un damerino di corte, un uomo ben piantato, con voce di basso. È lo spettro. Il re. Re, ma non re. E l'attore è Shakespeare, che ha studiato l'Amleto per tutti gli anni di sua vita che non furono vanità, per recitare proprio la parte del fantasma. Parla a Burbage, il giovane attore che gli sta davanti, al di là delle bende funebri, chiamandolo per nome. Amleto, io sono lo spirito di tuo padre. Ordinandogli di ascoltare. A un figlio egli parla, il figlio dell'anima sua, il principe, il giovane Amleto, e al figlio del suo corpo, Hamnet Shakespeare, che è morto a Stratford, affinché il suo omonimo potesse vivere per sempre. È possibile che quell'attore Shakespeare, spettro per assenza, e in veste del sepolto signore di Danimarca, spettro per morte, che diceva le sue parole al nome del proprio figlio, se Hamnet Shakespeare fosse vissuto sarebbe stato il gemello del principe Amleto, è possibile, vorrei sapere, o probabile, che egli non traesse o prevedesse la conclusione logica di quelle premesse. Tu sei il figlio spodestato, io sono il padre assassinato, tua madre è la regina colpevole, Anne Shakespeare, nata Hathaway. Questo ficcare il naso nella vita intima di un grand'uomo, cominciò Russell impazientemente. Sei là, soldino buono. Interessa solo un impiegato dell'anagrafe. Dico... Abbiamo i drammi. Dico, quando leggiamo la poesia di Re Lear, che ce ne importa di come è vissuto il poeta? Quanto a vivere, i nostri servi possono farlo per conto nostro, ha detto Villiers Lear. Sempre a ficcare il naso, a frugare fra i pettegolezzi di retroscena di quel tempo, quel che il poeta beveva, i suoi debiti. Abbiamo Re Lear ed è immortale. Il viso di Mr. Best, interrogato, consentì. Versa su di essi le tue onde e i tuoi flutti, Omananan, Omananan, MacLear. Orsù, Gagliaffo, è quella sterlina che ti prestò quando avevi fame. A fede di Dio, ne avevo bisogno. Togli questo doblone. Vanne, ne spendesti la maggior parte nel letto di Georgina Johnson, la figlia di un ecclesiastico. Agenbite of Inuit. Intendi restituirlo? Oh, sì. Quando? Ora? No. E quando allora? Ho pagato la mia parte. Ho pagato la mia parte. Vacci piano. Egli è delle parti di là del Boyne, l'angolo di nord-est. Tu sei debitore. Aspetta. 5 mesi. Tutte le molecole cambiano. Sono un io diverso adesso. Fu un altro io a prendere la sterlina. Via, via. Ma io, entelechia, forma delle forme, sono io per virtù di memoria, perché sotto forme sempre mutevoli. Io che ho peccato e pregato e digiunato. Un bambino che Conmi salvò dalle frustate. Io. Io e io. Io. A, E, I, O, U. Vuole mettersi contro la tradizione di 3 secoli? Chiese la voce capziosa di John Eglinton. Perlomeno il fantasma di lei è stato esorcizzato per sempre. È morta, almeno per la letteratura, ancora prima di essere nata. È morta, ribatté Stephen, 67 anni dopo essere nata. Lo ha visto entrare e uscire dal mondo. Ricevette le sue prime carezze, gli diede dei figli e gli mise i soldini sugli occhi per tenergli le palpebre chiuse quando giaceva sul letto di morte. Letto di morte di mamma. Candele. Lo specchio coperto. Colei che mi mise a questo mondo giace là, palpebre bronzee, sotto qualche fiore di poco prezzo. Liliata rutilantium. Piansi solo. John Eglinton fissò l'intricata luce di lucciola della lampadina. «Il mondo crede che Shakespeare abbia fatto un errore», disse, «e se ne sia cavato fuori al più presto e come meglio poté». «Balle», disse Stephen villanamente. «Un uomo di genio non fa errori. I suoi sono errori voluti e sono portali di scoperta». Portali di scoperta si aprirono per lasciar passare il bibliotecario quacchero, lieve, scricchiolante, calvo, orecchiuto e assiduo. «Una bisbetica», disse bisbeticamente John Eglinton. «Non è un utile portale di scoperta, mi pare. Quali utili scoperte dovette Socrate a Santippe?» «La dialettica», rispose Stephen, «e a sua madre l'arte di far partorire i pensieri. Ciò che imparò dalla sua seconda moglie Mirto, absit nomen, l'epipsichidion di Socratididion. Nessun uomo, e neppur donna, saprà mai. Ma né il sapere della levatrice, né le geremiadi della moglie lo salvarono dagli arconti del Sinn Féin e dalla loro coppa di cicuta». «Ma Anne Hathaway?» disse obliosamente la tranquilla voce di Mr. Best. «Sì, pare che noi la dimentichiamo come la dimenticò lo stesso Shakespeare». Il suo sguardo andava dalla barba del pensatore al cranio del capzioso, a ricordare, a rampognarli non senza gentilezza, poi alla zucca calvo rosea da Lollardo, incolpevole, seppur calunniata. «Aveva il suo soldino di spirito», disse Stephen, «e una memoria indefettibile. Portò un ricordo nella bisaccia quando marciò sulla capitale fischiettando la ragazza lasciata al paese. Anche se il terremoto non lo situasse nel tempo, sapremmo dove porre il povero leprotto nella sua tana, l'urlio dei veltri, le briglie con le borchie e le azzurre finestre di lei». Quel ricordo, Venere e Adone, era nella stanza da letto di ogni fraschetta di Londra. Caterina la bisbetica è forse brutta? Ortensio la chiama giovane e bella? E voi credete che l'autore di Antonio e Cleopatra, un pellegrino appassionato, avesse gli occhi così foderati di prosciutto da scegliere la più brutta puttanella del Warwickshire per andarci a letto insieme? Bene, la lasciò e raggiunse il mondo degli uomini. Ma le sue donne ragazzo sono le donne di un ragazzo. La loro vita, il pensiero, l'eloquio, son presi in prestito da uomini. Scelse forse male? Semmai fu scelto, mi sembra. Se gli altri hanno ciò che vogliono, Anne ha una sua maniera. Caspita, la colpa fu di lei. Gli ha messo il cappio, dolce e di 26 anni. La dea dagli occhi grigi che si curva sul giovincello Adone, umiliandosi per conquistare, come prologo all'azione pregnante. È una sfacciata fraschetta di Stratford che rotola in un campo di grano un amante più giovane di lei. È il mio turno? Ma quando? Vieni. Campo di segala, disse Mr. Best vivacemente, lietamente, alzando il suo nuovo libro, lietamente, vivacemente. Mormorò poi con biondo piacere per tutti. Fra la distesa della segala si giacevan quei vaghi contadini. Paride, il compiacente compiaciuto.